senza sigarette e il pianista non fuma e le bionde sono tinte anche sotto la luna. Sono senza sigarette e una storia è finita. Ho mangiato la foglia e non l'ho ancora digerita. Effetti stroboscopici del destino, difetti di pronuncia della realtà. La vita è come un party d'alta moda che ti rende all'orecchio ogni sorta di volgarità. Sono senza sigarette e la ruggine mi assale, il mio alibi altrove fra le braccia di un tale. Sono qui per un disguido ma il nemico non la beve. Sono pronto alla fuga ma nessuno mi insegue. Effetti stroboscopici del destino, sul cuore nudo e crudo della città. La vita è come un party d'alta moda che ti rende all'orecchio sorta di volgarità. Senza sigarette, il pianista non fuma e le bionde sono sfatte, la mia birra è tutta schiuma. Ho venduto i miei ricordi al museo degli orrori, il futuro mi aspetta con le cosce di fuori. Effetti stroboscopici del destino, fantasmi in testa, coda per la città. La vita è come un party d'alta moda che ti rende all'orecchio ogni sorta di volgarità. Che ti rende all'orecchio ogni sorta di volgarità.